24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In apertura, l'uccisione di 4 soldati francesi dell'ISAF in Afghanistan. Ad aprire il fuoco contro di loro un soldato afghano. Immediata la risposta diplomatica. 4 de nos soldats ont été tués. Uccise nella valle di Tagab, nella provincia orientale di Capisa, da un uomo con la divisa dell'esercito afghano. L'omicida, che si trovava a bordo di un minibus carico di esplosivo, è stato catturato, conferma l'ISAF. Una dinamica che deve essere ancora chiarita, dice il presidente francese Nicolas Sarkozy, ma è intollerabile che soldati afghani sparino su soldati francesi. Nous sommes des amis du peuple afghan, nous sommes des alliés du peuple afghan, mais je ne peux pas accepter che dei soldati afghani tirano su dei soldati francesi. Sarkozy ha annunciato la sospensione delle attività di addestramento e valuta un ritiro anticipato delle truppe. Mentre il ministro degli esteri Juppé chiede all'esercito afghano rassicurazioni credibili sul reclutamento dei suoi soldati, una condizione senza la quale le truppe francesi si ritireranno prima del tempo. Sono 82 i francesi morti in Afghanistan dall'inizio del dispiegamento della forza internazionale a fine 2001. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sentiamo il commento di Alberto Negri del Sole 24 Ore. L'avamposto francese della Task Force Lafayette è un nido d'aquila arroccato sul fianco di una montagna rugosa, una pietraia a quota 1500 metri che si raggiunge soltanto in elicottero. Sotto c'è il villaggio di Tagab, nella valle di Capisa. È qui che un soldato afghano ha fulminato 4 militari francesi. Capisa è una di quelle vallate remote sorvolate da un cielo cobalto che nessuno è mai riuscito davvero a conquistare. Arrivai qui nel marzo del 2010 e da allora poco è davvero cambiato. Qui, come in tutto l'Afghanistan, le insidie sono quotidiane per tutti i contingenti militari, anche per il nostro nella provincia di Herat. Forse anche di questo si parlerà la prossima settimana, quando il presidente afghano Karzai verrà in visita a Roma. È tedesco il cooperante rapito in Pakistan insieme all'italiano Giovanni Lo Porto. Lo ha confermato il governo tedesco. Il Pakistan aveva parlato di un cittadino olandese. Nessuna dichiarazione da parte dell'ONG, sempre tedesca, per la quale lavoravano. Voltiamo pagina. La Commissione europea è soddisfatta dell'ultima bozza sul nuovo patto di bilancio, che va nella giusta direzione. Lo ha detto la portavoce Pia Arenkilde. Siamo contenti di vedere che i cambiamenti da noi proposti sono stati accolti, ha detto la portavoce della Commissione europea, rilevando che i negoziati procedono bene e rapidamente. Siamo fiduciosi in un accordo al vertice del 30 gennaio. Intanto, ieri, chiusura piatta per i listini del vecchio continente. Le borse europee, in attesa di novità dalla Grecia, chiudono una seduta nervosa poco sotto la parità. Ieri Parigi ha chiuso a meno 0,2%, Francoforte a meno 0,19% e Londra a meno 0,22%. A Milano il FTSE MIB ha ceduto lo 0,13%, pur sostenuto da Finmeccanica, più 10%, e Montepaschi, più 8%, che festeggia il piano per evitare l'aumento di capitale. Brillante anche Atlantia, più 5% dopo i cali dei giorni scorsi, legati a un possibile intervento poi sfumato sulle tariffe autostradali. In coda al listino invece Mediobanca meno 1,9% e Snam meno 1,4%, in tensione in vista dello scorporo da Eni, che invece dopo una seduta in positivo ha chiuso a ridosso della parità. Fuori dal listino principale infine balza Bialetti più 20% grazie all'accordo sulla ristrutturazione del debito raggiunto con le banche creditrici. Ceo Condina da Radio Corp, Radio 24 e Sole 24 Ore. Lo spread BTP Bund archivia la settimana in deciso calo, la forbice tra i due titoli si restringe a 431,8 punti base dai 451,2 di giovedì e dai 485 di lunedì. Il rendimento del decennale scende al 6,25%, in leggero rialzo la moneta unica europea sui mercati valutari, ma ancora sotto quota 1,30 contro il dollaro. Il naufragio della Costa Concordia, false comunicazioni ai passeggeri, manovre di salvataggio incerte e contraddittorie, per oltre un'ora la verità tenuta nascosta anche alla Guardia Costiera e lo scenario che emerge dai video girati dai passeggeri della Costa Concordia. Mentre l'inchiesta procede non si registrano intanto flessioni nelle prenotazioni delle crociere a livello europeo e mondiale. Roberto Martinoli, delegato per l'Italia degli European Cruise Council, al microfono di Sebastiano Barisoni. confermo che il trend delle prenotazioni non ha avuto scostamenti significativi, è rimasto assolutamente quello che era nei giorni precedenti questo terribile incidente ed è continuato così fino agli ultimi dati che io ho potuto verificare, personalmente sono dell'altro ieri, quindi sono dati che parlano non solo del mercato europeo ma anche del mercato mondiale. In generale abbiamo avuto conferma che il consumatore ha fiducia nel nostro sistema e di questo ne siamo molto contenti, sono una conferma che per noi era molto importante e non solo il nostro sistema ma anche il nostro sistema sicurezza. Tenga presente che le crociere sono tipicamente un prodotto dove il cliente torna molto frequentemente, quindi il numero dei repeaters, quindi dei clienti che ricomprano lo stesso prodotto è molto elevato e che si avvicina anche al 40-50% se non di più in alcuni casi, e quindi è tutta gente che ha una buona conoscenza del prodotto e che l'ha già sperimentato e che ci ha confermato perlomeno indirettamente attraverso questo dato fiducia nel sistema crociera anche da un punto di vista della sicurezza. Ecco, lei teme che vi possa essere anche un coinvolgimento delle responsabilità, in questo caso del gruppo Costa Crociere? Non possiamo fare supposizioni. In un caso come questo, le navi sono dotate di questa scatola nera che tanto abbiamo sentito nominare. Questa scatola nera non solo registra tutti i dati della strumentazione di bordo, ma registra anche tutte le voci e quindi tutto quello che è accaduto sul ponte di comando della nave in quella tragica serata è già nelle mani degli inquirenti. Conoscendo l'azienda e conoscendo lo standard dell'azienda, sono intimamente convinto che la chiarezza sarà fatta e non immagino nessun tipo di coinvolgimento di responsabilità dell'azienda. A Bruxelles, città simbolo dell'Europa, la maggioranza degli studenti nell'ora di religione sceglie l'Islam. Sul web i commenti impazzano, c'è chi parla di assedio salafita, chi invece loda l'apertura multietnica della città. Nelle scuole di Bruxelles, infatti, l'insegnamento della religione musulmana ha superato per numero di studenti quello della religione cattolica. A dirlo è un'indagine del CRISP, il Centro di Ricerca e Informazione Sociopolitica, secondo cui tra i ragazzi degli istituti primari, nell'ora di religione, un 43% studia l'Islam, cifra che si attesta al 41,4% nei licei. Il 27,9%, cifra che sale al 37,2% nelle secondarie, segue invece un corso di morale laica. Solo il 23,3% ha optato per l'approfondimento della fede cattolica. Bruxelles è d'altronde notoriamente una delle capitali musulmane d'Europa. La stessa ricerca, tuttavia, nel resto del paese descrive una situazione molto diversa, ribaltando le proporzioni. Nelle Fiandre di lingua e cultura fiamminga, l'81,8% dei liceali segue corsi di religione cattolica. Katia Gramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso il cinema, sarà Nanni Moretti a presiedere la giuria del 65esimo Festival del Cinema di Cannes, in programma dal 16 al 27 maggio prossimi. Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Vengo. Ci vediamo là. No, non mi va, non vengo. No. Ciao, arrivederci. Era questo il dilemma che attanagliava Nanni Moretti in Eccebombo, un suo celebre film del 1978. Ma questa volta lui ci sarà, e come, a Cana a presiedere la prossima edizione del Festival del Cinema, la numero 65. All'invito degli organizzatori della rassegna, il cineasta italiano ha già risposto così: è una gioia, un onore e una grande responsabilità presiedere la giuria del festival più prestigioso del mondo, che si svolge in un paese che ha sempre considerato il cinema con attenzione e rispetto. Moretti, 58 anni, ha finora presentato 6 film al Festival di Cannes. L'ultimo è stato Habemus Papam lo scorso anno. Nel 1997 è già stato membro della giuria in occasione del cinquantenario della rassegna e nel 2001 ha vinto la Palma d'Oro con La stanza del figlio. Voilà, la Palme d'Or 2001. The Palme d'Or goes to the Nanni Moretti for... Nanni Moretti è dunque un veterano della Croisette. Thierry Frémaux, delegato generale del festival, ha dichiarato che il regista italiano è uno degli autori più importanti del suo personale Pantheon. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Truffa i danni dell'Unione Europea in Calabria. Con la complicità dei funzionari regionali hanno messo su un'imponente truffa ai danni dell'Unione Europea, riuscendo a percepire quasi 3 milioni di euro per il finanziamento di una struttura alberghiera in provincia di Catanzaro. 9 imprenditori e 6 funzionari della regione Calabria sono stati denunciati per truffa, falso ideologico, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, oltre alla frode fiscale. Le investigazioni hanno svelato un disegno criminale al centro del quale c'è la società Frarima SRL, proprietaria del Tio Hotel finanziato attraverso un giro di fatture false per gonfiare i costi dell'opera. Alla frode, secondo l'accusa, hanno contribuito fornitori compiacenti e funzionari regionali componenti della commissione di collaudo che hanno predisposto la documentazione per accedere ai finanziamenti, documentazione che si è rivelata falsa. La Guardia di Finanza ha proceduto quindi al sequestro preventivo dell'albergo, dei conti correnti e dei beni intestati o riconducibili alla Frarima e al suo rappresentante legale per un importo complessivo di 18 milioni di euro. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questo appuntamento con 24 ore in Europa. Grazie a Daniele Teruzzi in regia e a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.